All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Questa è un'altra settimana assieme, un'altra cena, un'altra puntata della cena dei regini che puoi seguire il bach.it e cliccando la cena dei regini puoi rivedere tutte le tre stagioni della trasmissione regina del pianeta Terra e poi puoi comunicare con noi con cena@bach.it, mandi una tua mail e ci commenti anche questa puntata. Una grande settimana qui all'House, abbiamo fatto una festa in maschera dove Andrina si è esibita in costume da infermiera, è stata una cosa spettacolare, e addirittura un ospite speciale, il polpo. Il polpo di cui abbiamo parlato alla scorsa puntata della cena regina era qua e ci ha allietato la serata. Nerd Monday sono ricominciati, il lunedì dedicato al cinema e giochi da tavolo, quindi bisogna assolutamente partecipare per essere dei veri nerdacci e quindi portare qui la vostra presenza per essere capiti veramente. Nerd Monday dedicati al gioco da tavolo e stare assieme. E poi ragazzi, adesso ci aspetta sabato l'incontro, la cena anche con Luca Mercurio che ci verrà a trovare, che suonerà qui durante la cena dei regini, quindi una puntata spettacolare, speciale e via dicendo. È tutto questo grazie alla Gilda degli Artisti, l'associazione culturale che gestisce anche queste cose. Ragazzi, gildatevi, gildartisti.org, cliccate, è gratuito, nessun impegno ovviamente, e grazie a questo la gestione degli eventi e potete partecipare al vero cambiamento in città. Altre cose da dire? La vostra Ciao, vita mamma. In queste saluto la mamma, perché siamo italiani, siamo mammoni, giusto? È bello incominciare così, ragazzi, un piccolo spazio musicale e tra poco torniamo con la cena dei regini. Domandine con l'ospite di questa sera, giovanissimo artista Regino Anna. Descrizione del tuo progetto musicale, perché ancora non lo conosco. Beh, è un progetto nato praticamente quasi 2 settimane fa, in maniera ufficiale. Ci stiamo lavorando da un po' di tempo, sto scrivendo delle canzoni e ho trovato degli amici che mi aiutassero a portarle su un palco, in uno studio di registrazione, via dicendo. E quindi adesso vi siete attivati dal produttivo? Sì, quindi adesso... Da dove deriva l'idea del progetto e in generale l'idea per un nuovo pezzo? Hai una... Beh, ci sono tante influenze, ci sono tanti... Dipende più che altro dal mood, dalla sensazione che uno prova in un dato momento, magari quando sono da solo a casa mi viene l'ispirazione per una melodia, per un testo e... Quindi in generale non c'è una formula e un ora mi metto, faccio una canzone, non esiste questa giustamente, cosa. Giustamente, sempre così un pochettino. Un giovane artista che si affaccia a questo ambiente, quali sono le tue aspettative e se c'è, a quale tipo di pubblico tu vorresti parlare? Beh, non ho l'aspettativa per ora è quella di riuscire a portare queste canzoni fuori e farle sentire a più gente possibile e sperare che le apprezzino. Alla fine uno le fa sì per sé le cose, ma a piacere. Giustamente, il gusto intanto di proporti e poi si va un passo alla volta. Ragazzi, la domanda finale è un po' quella che faccio a ogni ospite della Cena dei Regini, qualcuno l'ha già affrontata anche tra i presenti. Anna, sindaco di una città italiana, per un giorno, quali sono le iniziative da attivare subito per risolvere la situazione? Non sono il più indicato, penso, a poter stabilire cosa serva. E questo già fa di te un possibile politico. Ah, bene! Quindi ascoltiamolo. Dividiamo le due cose. Come vedresti una tua città ideale? La mia città ideale è una città dove chiunque si può esprimere e dire la sua senza paura, magari, oppure una città che non veda. Non lo so, è un concetto che non si può esprimere, penso. In due frasi fatte così, per libertà, tu dici libertà di espressione, libertà che di... penso la cosa alla base di una società equilibrata e giusta di tutto, dove ognuno può dire la sua senza ovviamente prevalicare gli altri. E ragazzi, Anna, il pezzo che abbiamo ascoltato, il titolo? Si chiama Can You Feel the Sun. Can You Feel the Sun, e lo stai presentando anche sul web? Lo sto presentando sul web, sì, è presente su tutti i maggiori social network, Facebook, SoundCloud, Bandcamp, ma è anche da una settimana su iTunes, Spotify, lo potete shazammare, ve lo trova, c'è ovunque, insomma. L'hai piazzato ovunque, sì. Giustamente. Ragazzi, un applauso a questo giovanissimo... che vuole approvare alla Cena dei Regini, quindi questo palco che ha ospitato anche la sua voce. Ragazzi, noi continuiamo con la Cena dei Regini, commentate a cena@back.it questa intervista o il back.it, cliccate la Cena dei Regini per vedere tutte le puntate della trasmissione. Noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale. je pose les armes et mon corps s'ouvre. Depuis mille fois, on s'est perdu. Tant de bruit, tant de chahut. Tu es parti, je suis resté. On s'est menti, on s'est manqué. Quand je me lève comme une louve, je pose les armes, plus rien ne bouge. Quand je me lève comme une louve, je sèche mes larmes et mon cœur s'ouvre. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini con l'angolo delle notizie dalla strada, quelle più strane e più divertenti che noi raccattiamo dal web per propinarle a te che sei a casa in questo momento. C'è anche il back.it per commentare le notizie assieme e il back.it cliccando cena regini per rivedere tutte le puntate di questa bellissima trasmissione. Ragazzi, la prima notizia è quella che ha sconvolto il mondo tecnologico in questi giorni: WhatsApp apre alle chiamate vocali. WhatsApp apre alle chiamate vocali, il VoIP ovviamente, che vuol dire che tramite WhatsApp, questa app diffusissima, puoi anche fare le chiamate. E invece no, ha ritirato tutto. Vedi che sei disinformato, devi guardare le notizie della strada da casa. Ha ritirato tutto, non si sa bene per quale motivo, immagino che ci sarà stato un traffico di dati immenso e quindi è tornata sui suoi passi. Quanto aspettiamo le chiamate vocali di WhatsApp? Quanto? Okay. Tanto. 11. Perché comunque sarà bello fare chiamate senza pagare nulla. Braccini corti. Senza pagare nulla. Ma su questo comunque se c'è il Facebook Messenger. Sì, ma i servizi ce ne sono tantissimi, comunque analoghi, anche migliori, però giustamente quest'app ha preso tantissimo nel tempo e sta veramente suscitando interesse da tutto il mondo, questa apertura totale alle chiamate anche vocali. Ma ragazzi, tecnologia ancora una volta, perché da questi mesi in poi potreste avere una bolletta più ridotta. Un metodo per avere la bolletta più ridotta, ad esempio, è usare le candele, perché che ti salva anche con la fidanzata, perché comunque sei certo. Più romantico, più così eccetera, invece stai risparmiando. E poi ovviamente per chiamarla usi WhatsApp. Sei sempre tirato. Pizzano i viaggiatori. E invece no, al posto delle candele puoi usare gli interruttori smart connessi sempre al web tramite un dispositivo WiFi. Permetterà all'elettrodomestico di essere attivato quando tu vuoi, quindi la mattina lo programmi e quello ti accende la macchina del caffè, ad esempio. E questo dovrebbe risparmiare, perché il resto della giornata, essendo staccato, la lucina dello stand by non resta attiva. No, ma resta acceso il dispositivo? No, il wifi, ma è solo il cosino del wifi. Rispetto alla quantità di energia consumata dallo standby che è continuo, il wifi evidentemente uno solo per tutto, quindi comunque c'è un vantaggio pazzesco. Poi è carino, programmi la mattina per il caffè, a pranzo quello che ti fa il pranzo, quindi è quello che userai per farti il pranzo. C'è il robottino che il robottino, ovviamente. La sera lo scalda la copertina termica e basta. Non devi più fare nient'altro. Non serve. Però se vuoi andare a letto prima rovini tutti i piani e perdi le cose. Però comunque è un'invenzione particolare, sta prendendo già tantissimo negli Stati Uniti, un'invenzione del MIT del Massachusetts che ha inventato questi dispositivi, che non è male come cosa. Cioè, c'è un piccolo forse problema di privacy, perché comunque tutte queste cose che controllano la casa è particolare, però può essere una notizia rivoluzionaria per qualcuno, per gli abitudinari sicuramente. Ragazzi, abbiamo detto prima, essere romantici con la propria ragazza, con la possibilità anche di risparmiare, ma soprattutto di utilizzare le candele, è un esempio di romanticismo, è questo italiano, pensate, è italiano, Luigi Berardi è evaso dal carcere di Mantova, è andato a Rende in provincia di Cosenza, è venuto qui perché gli mancava la sua casa? No, perché voleva farsi un giro in moto? Assolutamente no, per presentare la fidanzata ai genitori. Cioè, è passato dal carcere, tipo questo, c'ha la polizia dietro, si mette a caso che mamma, papà, questa è la fidanzata, eccetera, e poi l'hanno beccato. No, la fidanzata era fuori, lui è uscito per presentarla ai suoi genitori. Vabbè, è una dimostrazione d'amore, cioè, la polizia di intelligenza. È fantastico. Non coincidono, perché comunque l'amore, diciamo, che l'ha ottenebrato. E tra l'altro questo ragazzo era dentro per rapina ed estorsione, quindi comunque non era, diciamo, proprio uno stinco di sangue. Evidentemente, cosa non fa l'amore? Ad esempio, per cosa si scappa dal carcere? Per cosa si scapperebbe dal carcere? Mai stato in carcere? No, mi manco. È incredibile. Per due è così. Ma pensa tu, sono l'unico. No, ovviamente no. Però ragazzi, una cosa per cui scappereste dal carcere: la libertà. Solo il gusto della libertà. Bella, bella questa cosa. Quindi, oppure la un'idea, scappi dal carcere dopo questi mesi, partecipare alla cena dei regini. Giustamente, diamo una bottiglia di vino a quel ragazzo per poter fare una doccia senza aver paura del sapone che accade. Ovviamente, Giuseppe, perché tu dici di tutto, di tutto può accadere. Quindi l'amore, la passione, ma le passioni possono essere tante e veramente varie, anche durare nel tempo, come ci si augura nelle relazioni sentimentali, poveri illusi. Ha passato 5 anni in cucina con milioni di perline di vetro, questa donna. 5 anni, una cucina, una donna, perline di vetro. Cosa avrà fatto? Collane. Oppure? Bracciali. Oppure? Ho un'idea, ma non posso dirla perché sono in radio. Va benissimo così. Ha attrezzato la cucina e un giardino con queste perline di vetro. Lei si chiama Lisa Lu, è di New York, ha fatto questa che è considerata una grandissima opera d'arte, cioè ha preso questa cucina e l'ha veramente tappezzata di queste perline, è stata in ginocchio lavorando solo con le mani, capisci? È stata in ginocchio lavorando solo con le mani per 8 anni. Pensa che dedizione, e ci ha fatto tutta una cucina, perché comunque ha fatto, oltre alla cucina, anche la scatola dei cereali, la colorata con queste perline, la padella, l'ha fatta tutta perlinata. Voglio dire, quale grande pazienza per fare quest'opera. Non contenta, ha fatto anche il giardino di perline. Quindi ha fatto quest'altro set con tutte le perline e le cose. 8 anni di questo magnifico risultato. Ma sotto un vaginocchi cosa c'aveva? Un cucino? si sarà attrezzata la ragazza, si sarà attrezzata. Sì, perché giustamente. Quando andava a scuola a me mettevano il sale sui ginocchi, che era cattivo. Io sapevo i ceci. Anche i ceci. Dietro la lavagna. Vedi. Sale, ceci, basta, che poi non so cosa mi diventa questa trasmissione. Però anche questa è un'idea, cioè, quindi tu dici, dovrebbe Quando si faceva la cattiva, col cattivo, dietro la lavagna, stare sotto i ginocchi. Vedi, vedi, The Educational Channel. Pensaci anche tu che sei a casa. Però non uso più una volta. Cioè, per punirsi avrebbe fatto anche questa cosa, mettere il sale a terra, dici tu. Invece no, però si è limitata. Però e invece la paura stavo sempre così. Vedi, vedi, bisogna provare questa cosa, bisogna farla in trasmissione qualche volta con qualche ospite. Ad esempio, no, no, perché so già come finisce. cosa ti preoccupa? No, no. Ma il sale grosso, mica quello fino, Non dargli idea. Brava Andreina, brava. Ma ancora per quella volta dell'ASMR che hai fatto. Ma no, basta. Basta. Trascorsi in questa grandissima trasmissione. Ragazzi, parlando di passione, andando avanti, questa ragazza 8 anni per dedicarsi a questo opere d'arte, che ovviamente, conoscendo il settore, la faranno famosa in tutto il mondo, perché voglio dire, sono cose belle e inutili e quindi piacciono. Lui si chiama Zhang Wei, è un ex soldato cinese e ha una grandissima, grandissima passione, condivisa da molti, penso anche in non tenera età, e la sua passione sono i Transformer. Quindi ex soldato cinese, ha avuto le sue esperienze, eccetera, finisce il servizio, torna a casa, dedica la sua vita ai Transformer. Una collezione sterminata, tra l'altro condivisa con la moglie, che ovviamente è un'altra appassionata di Transformer. Non è bellissima questa cosa? Pensavo se ne fosse costruito uno la povera partita. Ancora no, però ci sta pensando. Dice, qualche anno fa comunque ha avuto questa idea per impiegarsi il tempo. Cosa farò? Colleziono Transformer. Adesso ha una casa che addirittura ha dovuto modificare per ospitare tutta la sua mega collezione. È una cosa collezionata da voi, anche da ragazzi, perché Transformer sono una cosa, diciamo, che si vive più in tenera età. Una cosa che ricordereste della vostra età. Avete una collezione particolare? I Gormiti, i Pokémon e poi? I giocattoli di Dragon Ball. Guarda Dragon Ball come prende. Megazord. Che era dei Power Rangers. Tutto il set dei 5. Dei Power Rangers. Dinosauri, Dazzler. Bellissimo, quelli di altri tempi, quelli dei Power Rangers. Tra l'altro hanno fatto un reboot recentemente con James Van Der Beek protagonista. Pazzesco, non so se l'hai visto. E ora devono fare il film che riprenderà la serie, la prima serie. Hanno fatto un reboot straordinario che è liberamente visitabile su internet, che è assurdo, che è un dark molto estremo con lui, che lo ricorderemo nel ruolo di Dawson Creek per sempre, e quindi comunque già questo fa veramente pensare molte cose. Quindi molto Dragon Ball, molte collezioni, una collezione che vi piacerebbe fare invece di... Piacerebbe adesso da adulti vinili, giustamente, perché poi si cresce gli interessi. Paperelle di gomma. Ma che? Paperelle. Di varie forme e dimensioni. Non l'avevo ancora detto. I francobolli è un classico. Non l'avevo ancora detto in questa puntata, quindi è giusto che si deve riprendere. Quindi vinili, francobolli, insomma, ce n'è per tutti i gusti, eccetera. C'è una caccia di back.it e puoi anche indicare la tua collezione in questo momento. Magari se l'hai seduto accanto a una fila di Ferrari fiammanti, e in questo caso invitami a casa tua. Magari sei là nella tua mega villa con delle conigliette di Playboy, e in questo caso invitami a casa tua. Magari sei là a collezionare i bicchierini del McDonald's, e in questo caso per andare a casa tua. Ma io no. Perché bisogna comunque dare questo contatto col pubblico, voglio dire, giustamente, ragazzi, volete perdere peso, tutti vogliono perdere peso in questo mondo, tutti, praticamente è universale. C'è un me che cosa una connessione, volete perdere peso. C'è un metodo facilissimo: giocare a Tetris. Cosa? Pensa, i ricercatori statunitensi hanno fatto questo esperimento. Giocare a Tetris fa dimagrire, perché comunque l'attività sulla console ti distrae dalla fame e non hai l'impulso di andare a mangiare. No, è stato localizzato il Tetris perché tiene alto il livello di attenzione e quindi comunque ti distrae dall'input Nutella, dall'input patatine, dall'input pasta e via dicendo. Quindi pensa, avendo fatto questo esperimento straordinario, tra l'altro dividendo delle persone che giocavano a Tetris da persone che avevano davanti uno schermo di un computer sempre in caricamento. Sarà stato un computer Windows sicuramente. Sempre in caricamento. C'era questo schermo di un continuo caricamento. Le persone col caricamento davanti andavano a mangiare, quelle col Tetris stavano là. Guarda tu, che strani, che fai davanti al computer che carica? Esatto. Però se lo dicono gli scienziati è corretto. Però è sempre meraviglioso vedere che ricerche si mettono a fare questi ricercatori americani. È vero. Ma infatti è questa la cosa interessante. Ha ragione. Perché lui dice, pensa, innanzitutto c'è uno scienziato che ha dedicato anni della sua vita a studiare, è diventato adulto, cosa farò nella vita? Studierò il Tetris. E poi dei tizi che sono stati messi là a giocare. È la scienza moderna, è fantastico questa cosa. Il bello è che però la gente che fa questi test viene pagata lì. Quindi forse ben vengano queste ricerche. Vedi, bisogna pensarci anche a questa. Che nessuno mi paga per giocare a Tetris, scusate. Perché devi sottoporti in America a questi test che a loro piacciono tantissimo, dire. Tra l'altro è importante, il Tetris per dimagrire può essere una svolta, ragazzi, pensateci anche voi, o magari suggerite un metodo per dimagrire, che potrebbe essere dimagrire con... Tipo lui corre, io con un tiro dietro lo inseguo. Bello, okay. Quindi come la Wii, però reale. Perché io finisco sempre sotto i tir? Perché c'è più gusto averti sotto i tir. Perché comunque al pubblico piace, cioè capisci, devo interpretare. La violenza tira sempre. La violenza è un'altra cosa, però non è il caso che esponi in questo momento, tranquillo, va bene così. Continuiamo sulla violenza e a tal proposito mettiamo il bollino rosso. Il bollino rosso, la notizia piccantella della settimana, che è anche una notizia triste, ragazzi, è col cuore veramente pesante, che bisogna dare un annuncio molto molto triste, ragazzi. Dal 23 marzo Google censurerà il porno online. Ok. Beh, tutti, vado a fare finta di niente, allora. A fare finta di niente. Vado, siete veramente. Si prevede una diminuzione del traffico su 75%. Almeno 75%, non è pure di più. Nel 2015 c'è ancora gente che cerca il porno su Google. Perché Google ospita anche il porno grazie ai suoi servizi, come ad esempio qua l'esempio di Blogger. Ed è stato scoperto che ad esempio Blogger era una piccola miniera del mercato dell'arte online. Cioè pensa tu, Blogger, un sito, un servizio che ti permette di fare il tuo sitarello là online, la perversione di utilizzarlo con questi scopi. E tu penserai che è una cosa di, come dire, di eleganza, di... E invece no, l'hanno fatto apposta perché c'era tanta gente che si faceva migliaia di dollari con questo sistema. Cioè tu apri un sito su Blogger, metti la tipa in atteggiamenti comunque abbastanza osceni, picco di visite, dollari. Vedi perché? Ma funziona, perché no? Apposta l'hanno dovuto bloccare per questo motivo. Altra grande baluardo dell'hard online è Twitter, il servizio di microblogging, anche là riescono con 250 caratteri, è fantastico. Non è che serve a scrivere il genere, in genere. Ma 200, cioè, il Twitter è un messaggio limitato, quindi eventualmente, cioè, magari... C'è in un messaggio vedi una mano, in un messaggio vedi una spalla. Non funziona così, lascia stare. Vabbè, vuoi spiegare? No. allora, che problema c'è? Ragazzi, notizie dalla strada, c'è anche per punto di vista, anche per commentare, magari stai in questo momento vivendo notizie dalla strada, perché può essere che trovi un coccodrillo in cucina e ce lo puoi segnalare, può essere, dopo dopo il Puma dell'anno scorso può essere tutto. Puoi anche segnalare le tue notizie e noi ci ritroviamo qui dopo un piccolo spazio musicale. A smile and a happy gaze on flower field summer days, a sweet gentle melody is bringing back serenity. Dark and stormy night, those fond memories just express one wish. I want you to stay, I want to stay with you all of my life. I want you to stay, I want to stay with you all of my life. I want you to stay, I want you to stay, I wanna stay. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Cena di chiocciolabacca.it per commentare anche questo blocco. Assieme andiamo al blocco della classifica. Ogni settimana una classifica dai punti salienti, dai punti divertenti da commentare assieme con i ragazzi della cena dei regini e con voi a casa. Questa settimana affrontiamo i falsi miti della tecnologia. Ce ne sono 10 che sono veramente popolari, famosi, insomma, un po' in tutto il mondo. 10 falsi miti della tecnologia. La numero 10, la diffusione tramite drone dei pacchi di Amazon. C'è questa idea che ci sia il drone che prende il pacco e lo porti a casa della gente in America, invece purtroppo non è ancora così. Il progetto, tra l'altro, è stato bloccato, dall'ente di aviazione americano, perché l'idea qual era? Tu ordini delle scarpe su Amazon, un libro su Amazon, il drone lo prende, te lo porta e te lo deposita a casa e tu gli paghi quanto gli devi. Pensa che bello. Diventa una caccia al drone, si spara. C'era un video ironico che faceva prendere proprio questa considerazione. Quindi tu fai il drone passare così. Tanti droni che consegnano pacchi in giro per l'America. Un drone dall'America che attraversa l'oceano per costosissimo, però poteva essere anche valido. Quindi l'idea c'era, però al momento è stata bloccata perché comunque sarebbe stato un po' di traffico aereo in eccesso e quindi comunque l'hanno bloccata. Alla numero 9, ragazzi, due falsissimi miti storici ma molto diffusi. Il primo è che Thomas Edison abbia inventato le lampadine e il secondo che Henry Ford ha inventato le automobili e le catene di montaggio. Entrambi comunque hanno reso note delle invenzioni che però erano già abbastanza diffuse in giro per il mondo. Edison la lampadina e Ford l'auto, che però ha reso popolare e democratica. Sono passati alla storia come gli inventori di qualcosa che in verità non hanno inventato, per di questi americani, anche quando non fanno le cose. Questo non lo... Tu dici, questo cellulare lo rendo popolare, metto i diritti su quello che comporta questa tecnologia. Praticamente fai quello che fa l'Apple, quindi niente di nuovo. Mi dispiace, anche questa idea è andata. Al numero 8, la similitudine tra le TV LCD e quelle LED. Le TV LCD sono migliori di quelle LED, invece no, per il semplice motivo che comunque hanno le stesse parti e che la tecnologia è molto interna rispetto allo schermo, quindi comunque c'è una differenza veramente risibile. Ogni televisore LCD ormai utilizza i LED, quindi essenzialmente non c'è nessuna differenza. La differenza è nel prezzo, semplicemente fantastico. In quello. Altro mito da assolutamente sfatare: le innovazioni tecnologiche che cambiano il mondo da subito. Non è sempre così. Ad esempio il telefono, inventato anni e anni fa, però poi ha avuto diffusione successivamente. Quindi comunque c'è questa idea della tecnologia che cambia subito il mondo. In America è molto sbagliata questa concezione, cioè l'idea che comunque tu apri un garage, costruisci computer e diventi subito Apple, perché comunque anche questo, e tra l'altro è stato sfatato anche questo mito, quindi comunque questa è un'altra cosa che aggiungeremo alla lista. Altra idea comune è che la disposizione dei tasti sulla tastiera, la cosiddetta tastiera QWERTY, sia la più efficace tra tutte. Invece no, la più efficace è la cosiddetta tastiera Dvorak, che sembra una razza aliena di guerre stellari. I Dvorak conquisteranno anche voi. No. È bella questa cosa. Tra l'altro con la tosse viene meglio questa interpretazione. La tastiera Dvorak, con tutte le vocali e le consonanti più diffuse che si trovano al centro, ed è quella spesso utilizzata anche per chi deve dattilo scrivere. Però ormai la QWERTY, per una serie di processi commerciali, è diventata la più diffusa e non si cambia più, perché ormai è così popolare che se tu dai una tastiera diversa sembra quasi la pietra dello scandalo, capisci? entrare nella mentalità popolare a volte. Io non ci credo, è importante. Esatto, perché ormai sei abituato a quella disposizione lì. E quindi giustamente la QWERTY continuerà a vivere nelle nostre giornate. Al numero 4, diffusissima questa credenza molto molto molto intima, particolare, i laptop sulle gambe rendono gli uomini sterili. C'era questa idea che comunque non è vera. La leggenda metropolitana vuole che i campi elettromagnetici interferissero in qualche modo con il meccanismo, diciamo, umano, e rendessero sterili. Penso, quindi, calo incredibile delle vendite per risollevare la situazione. No. Si è chiarito che effettivamente il calore forte, eccetera, potrebbe dare problemi, però no, questo è un mito da sfatare. Quindi puoi tenere tranquillamente il telefono il laptop sulle gambe e non dà problemi. Che bella questa cosa, soprattutto se vuoi, se hai una vita triste e passi così il tuo tempo con un laptop sulle gambe. Non puoi permetterti una scrivania. Oppure sei talmente impegnato di stare in giro, devi comunque, non si sa, cioè magari i diversi utilizzi, però è bello pensare che non abbiano i soldi per comprarsi una scrivania, perché è molto sadico e le battute peggiori le deve fare lui. Alla numero 3, ragazzi, grande mito, sfatiamolo ancora una volta: i Mac non possono essere infettati da alcun virus. E invece errore. Ci sono diversi programmi, tra cui iOS, che comunque danno dei problemi agli utenti, e quindi funziona da veri e propri Trojan cosiddetti, capaci di intaccare da dentro il sistema operativo, come succede con un altro esempio di eccellenza, tale Windows di Microsoft. Scommetto che Linux no. No! Guarda tu, è casino. Proprio quello che usi tu. Esattamente. E quando i Dvorak conquisteranno la Terra, sarà così per tutti. Ma ragazzi, alla numero 2, questa è veramente sconvolgente. È veramente sconvolgente. Quando tu su un cellulare vedi le tacche, rappresenta il... Le tacche su un cellulare... No, il... Il campo. Il campo, cioè la linea, cioè quanto. E invece assolutamente no, ragazzi, questa cosa è sconvolgente. Quelle tacche rappresentano solo la vicinanza all'antenna che permette di trasmettere il segnale, quindi in realtà non c'è alcuna vera connessione tra quelle tacche e la qualità del segnale. Quindi le tacche, che dagli anni 90 in poi sono state la gioia di Olimpico. I telefoni sono collegati a un'antenna, maggiore la qualità, perché tutti vanno sulla stessa antenna, quindi non c'è, certo, hanno la qualità buona. Meno, quindi... meno cellulari sono vanno su questa antenna. Ragazzi, giustamente abbiamo il parere tecnico e mi sembra giusto ascoltarlo. Quindi è più importante che l'antenna sia libera da ulteriori utenze, tu dici, così è più veloce la comunicazione, più anche questo può incidere. Però il fatto che le tacche rappresentino la vicinanza e non la qualità del segnale sfata un mito che effettivamente è molto diffuso, perché comunque negli anni 90 si stava là in giro per casa, prende un campo, tre tacche, due tacche, invece adesso non ci si può più scollegare perché si è sempre connessi. E poi, ragazzi, la numero 1, ancora in casa Apple, la playlist random degli iPod, perché si pensa che sia un algoritmo del tutto casuale, invece no, pensa tu. E dopo diverse lamentele, lo stesso Steve Jobs andò a mettere mano a questo programmino che decideva la casualità dei pezzi, perché secondo l'utenza della Apple era scandaloso che comunque potesse capitare che lo stesso artista fosse rappresentato due volte, cioè che capitassero due pezzi dello stesso artista consecutivamente. impossibile c'è questa cosa. E quindi Steve Jobs stesso disse: lascia stare che faccio qualcosa nella mia vita, e modifico la playlist dell'iPod, e pare che l'abbia fatto. Quindi la playlist del random degli iPod in realtà non esiste, come il Dvorak. altri miti. C'è questo tuo comportamento passivo aggressivo nei confronti della Apple e di Windows? Assolutamente no. Ma cosa devo far pensare? Ognuno ha le sue idee, giustamente, perché io non giudico. Alcune ce l'hanno giusti, altre ce l'hanno quale. Bravissimo. Sarai nominato console di Dvorak quando saremo in onda. Rettiliano. Wow, no. Non parlare di rettiliani, che è meglio. Mi sembra che soffendo, no? Altri miti tecnologici, che vi ricordate qualche mito che avete sfatato così? Il soffiare nelle cartucce del Nintendo. È stato dimostrato che non c'è nessun motivo pratico per cui dovesse funzionare, però funzionava. Però funziona, vedi. Era effetto placebo nei confronti delle cassette. Pensa, cioè, quindi soffiare è inutile, però comunque qualcosina smuove, perché magari bastava ormai una carezzina. Ormai tipo, molti nemmeno hanno mai fatto di soffiare. Vabbè, ovviamente direttamente. Però questa è importante, vedi? Io pensavo che fosse essenziale, invece no. Altri miti che avete in mente? La tecnologia che vi ha deluso, eccetera. Giustamente vi stava dicendo il mito che Windows non si blocca, invece no, si blocca. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti, perché ragazzi, la fine di questa puntata. Salutiamo il nostro pubblico, ogni settimana ci segue alla cena dei regini, il bac.it, clicca la cena dei regini e guarda tutte le puntate online e commenta tramite cena@bac.it. A settimana prossima col bac, ragazzi, la cena dei regini, ciao, applausi. And I keep that bitch barking, lights sparking, hand me the marker till it darkens. I've started, I'm embarking on my fantasy. Let go of the wheel, cause nobody can handle me. Excuse me while I blow, better watch your back while you plan to back hoe. Slicker and consider in the middle of an inch and a pinch, it'll singe from the fire in my motherfucking flow. Medusa eyes and I turn to stone, all along immortal on my throne alone. Now I'm gone, lost out in oblivion. Smack in the back of the crack, moon rocks an attic in the attic, so the sergeant said I'm shivering cold. Chow no, white glow, ready, go. That walked away from the light. Throw up a finger if you wanna feel the shine. Let it linger, let the light radiate a million miles high. Let's levitate, we elevate. Look down at the sky, wave goodbye, say hello. Down below is the pilot with his aviators. Y'all already know. Hold on, hold on, hold on, hold on. Y'all already know. White rhino, white light. White rhino, white lights, y'all already know. Rhino in this bitch bout to blow. Ready, go. Call me home, it's the call of the nation. It's me and I'm coming, I'm bombing, and I'm bombing another nation. I play PlayStation, I'm playing a vacation in this place, staying way, away, way up high like what I embody. Said a little beef, oh God, la-di-da, the heavenly body glitters. I'll be the blooming illuminati. body, everybody burning. Have you seen this? Have you heard this verse so fly at the mouth like blurted wordsmith, thought twisted inverted. This beast dropping, this beast dropping, this beast dropping, dropping, dropping. This beast dropping, this beast dropping, this beast dropping, dropping harder than bird shit.